Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Ora ti voglio parlare del più grande evento scientifico nella storia dell'uomo. Un'intelligenza artificiale? Salve. Ciao. Non ho mai conosciuto qualcuno di nuovo. E tu? Nessuno come te. Lei è incredibile. La sfida è mostrarti che è un robot e vedere se la percepisci lo stesso come essere cosciente. Buongiorno, avete appena sentito alcuni spezzoni del film Ex Machina, diretto da Alex Garland e con la modella Alicia Vikander che fa la parte di un robot talmente evoluto che fa innamorare il ragazzo protagonista un po' ingenuo che poi fugge con lei. Ebbene, niente di tutto questo è reale o lo potrà essere nei prossimi 50 anni. Il mondo della robotica e il mondo soprattutto dell'automazione industriale è una cosa completamente diversa. Ciò non di meno investirà pesantemente le vite di tutti noi e soprattutto il modo di lavorare di tutti noi. L'industria, il mondo della produzione, è in questo momento storico sconquassato da quattro grandi rivoluzioni tecnologiche. Il primo è quello della robotica industriale o automazione spinta. Il secondo è quello dell'Industry 4.0 che i nostri radioascoltatori hanno sentito raccontare in tante puntate. Il terzo è la manifattura additiva e il quarto è quello delle nanotecnologie. Oggi parliamo di robotica e di robotica industriale e lo facciamo con uno dei massimi esperti che ci sono in Italia, e cioè la professoressa Arezia Molfino, che è docente di robotica e flexible automation alla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Genova. È presidente della SIRI, che una volta si voleva dire Società Italiana di Robotica Industriale, adesso vuol dire Associazione Italiana di Robotica e Automazione, nonché dell'Istituto Italiano di Saldatura. Parlare con la professoressa è molto interessante perché lei tende a smentire i vari luoghi comuni, il primo dei quali è quello che avete visto nel film, e a spiegare che la robotica è tutt'altra cosa. Per esempio, una delle cose che ci dirà è che in realtà la robotica salva l'industria e non distrugge posti di lavoro come si tende a credere. Ma parliamo direttamente con lei. Buongiorno professoressa. Buongiorno dottore. Allora, io ho visto tra i suoi tanti scritti che in minima parte ho potuto passare in esame che lei sostiene che non è vero che la robotica, l'automazione spinta distrugge posti di lavoro, ma anzi li può salvare e far aumentare. Sì, non lo dico solo io. Diciamo l'International Federation of Robotics, di cui sono National Coordinator, che riguarda diciamo un po' la robotica in tutto il mondo, ha dato il compito alla Metra Martech inglese di fare una ricerca su questo argomento. Ed è risultato che quelle aziende che hanno investito in robotica sono le aziende che più facilmente hanno confermato la loro presenza sul mercato. La robotica, diciamo, non distrugge posti di lavoro, cambia, se vogliamo, modifica posti di lavoro, prima di tutto aiuta l'azienda a rimanere sul mercato, a volte senza una introduzione di robotica e di sistemi di automazione, le aziende si troverebbero in difficoltà. È sempre stato così, fin dagli albori della rivoluzione industriale. Certo, certamente. La robotica oggi per di più vuole fare collaborazione con l'uomo per tutta una serie di compiti per cui questo porta dei benefici. Sono i cosiddetti robot collaborativi. Ecco, sì, le stime di mercato sono che il mercato della robotica vale 27 miliardi di euro e di quei 27 miliardi di euro solo 95 milioni sono quelli dei robot collaborativi. Però si dice che da qui al 2020 ci sarà una crescita fortissima e i 95 milioni di robot collaborativi diventeranno un miliardo. I robot collaborativi sono quelli che stanno a fianco dell'uomo svolgendo insieme a lui particolari funzioni e invece si distinguono dai robot di servizio che espletano in autonomia dei compiti, giusto? È così. Quindi diciamo non ci dovrebbero essere problemi di concorrenza tra robot e lavoratori, anche perché ai robot possiamo attribuire tutti quei compiti anche nell'industria o anche fuori dell'industria come robotica di servizio, compiti che sono pericolosi, stressanti, impossibili per gli esseri umani. L'Italia è il quarto paese produttore mondiale di robot, con circa 5 miliardi di fatturato generato nel nostro paese rispetto a un mercato che ne vale 27. Però le aziende italiane come utenti di automazione sono posizionate altrettanto bene? Ma abbastanza, diciamo, soprattutto dovuto all'industria dell'automobile, quindi abbiamo il gruppo Fiat Chrysler che continua, diciamo, ad essere un fruttore di robot. Poi abbiamo delle piccole aziende che forniscono robot, anche robot di taglio e di architetture completamente diverse ed innovative, e poi soprattutto noi abbiamo e siamo fieri dei nostri integratori di robot. Quelle industrie che confezionano, preparano impianti di produzione o celle di produzione che utilizzano robot. Comunque il mercato mondiale italiano della robotica è in fortissima crescita. Sentite qua una scheda sui numeri. Di quali valori economici parliamo quando parliamo di robotica? Secondo le stime di Boston Consulting Group, il valore del mercato mondiale dell'automazione avanzata nel 2015 è stato di 27 miliardi di dollari, un incremento notevole rispetto ai 10,8 miliardi del 2005 e ai 7,4 miliardi del 2000. Poco meno di un quinto di quel valore è generato dall'Italia, dove la robotica vale circa 5 miliardi di euro, due dei quali prodotti dalla torinese Comau, del gruppo Fiat. La stima di Boston Consulting Group è di una crescita mondiale del valore di questo mercato pari al 9% annuo, una percentuale paragonabile a quella dell'informatica negli anni 90. Boston Consulting Group stima anche una forte riduzione dei costi pari al 20% all'anno e un aumento della produttività pari al 5% annuale. A causa dei robot, il costo complessivo del lavoro dovrebbe scendere del 16% entro il 2025. Per allora il 25% di tutti i compiti automatizzabili sarà stato effettivamente affidato all'automazione. Oggi si fermano al 10% con un incremento relativo di circa il 10% all'anno. I settori coinvolti sono il manifatturiero, soprattutto industria automobilistica che assorbe il 40% del totale, seguito dal militare e dalle applicazioni domestiche. Il paese con maggiore richiesta di robot industriali è la Cina, dove secondo Boston Consulting Group nel 2017 opereranno 400.000 robot, più dei 340.000 attivi negli Stati Uniti. Sempre secondo Boston Consulting Group, gli effetti dell'automazione robotica non saranno uguali in tutto il mondo. Si vedranno soprattutto in paesi come la Corea del Sud, la Cina, gli Stati Uniti e la Germania, che hanno già dimostrato una forte capacità di innovare su questo fronte. E nel 2025 compreranno circa l'80% dei robot venduti in tutto il mondo. Le stime sono che entro il 2025 in Italia i robot faranno risparmiare l'8% sul costo del lavoro, negli Stati Uniti il 22%, in Giappone il 25% e in Corea del Sud il 33%. Un dato interessante è la forte discesa del prezzo medio dei robot, che rende accessibile l'automazione avanzata anche alle piccole imprese. Per esempio, il modello Universal UR5 della Universal Robotics costa $34.000, che con i costi di avviamento diventano $70.000, e può movimentare materiali e assemblare macchinari. Il modello Baxter di Rethink Robotics costa invece €25.000, €38.000 con i costi di avviamento, e può impacchettare e spacchettare. Nel 2018 il settore della costruzione di apparecchiature elettroniche sarà il primo in cui i robot saranno meno costosi della manodopera umana. Per il settore dell'arredamento il sorpasso è previsto nel 2023. Rieccoci in linea con la professoressa Molfino. Ecco, dicevamo, le imprese italiane come utenti di robot, come acquirenti di automazione spinta sono messe abbastanza bene, ma non benissimo. Ora, Se arriva una rivoluzione che investe tutto il mondo della produzione, questo vuol dire che cambia anche gli equilibri e quindi le imprese devono sapere cavalcare questa ventata di innovazione, se no vengono spazzate via da concorrenza internazionale. E noi abbiamo un sacco di piccole e di medie imprese, professoressa. Moltissime. E lei li vede investire in automazione in modo adeguato? Noi abbiamo una rete, diciamo, abbiamo un numero di imprese piccolissime enorme. Io vedo queste piccole aziende divise in due, proprio ci sono quelle ad alta tecnologia che sono veramente veloci e pronte a prendere a prendere quello che serve per poter rimanere sul mercato. E sono addirittura degli esempi per tutta l'Europa. Ed altre invece che sono più addormentate, diciamo così, vivono nel continuo, nella tradizione. Ecco, poca attenzione a quello che succede. Questa esplosione del mercato dell'automazione industriale è parallela al fenomeno dell'Industry 4.0, che poi è la totale digitalizzazione resa possibile dall'Internet delle cose. Ecco, ma come si intersecano le due cose? La robotica c'entra qualcosa oppure sono moltissimo. Solo cose parallele ma che vanno ognuna per conto suo? No, sono cose assolutamente, diciamo... Sì, possiamo dire parallele, ma parallele integranti, sì, nel senso che oggi si vuole andare incontro a un mercato che è molto diversificato, i prodotti hanno cicli di vita molto corti, quindi si vuole parlare di added value manufacturing, vogliamo diciamo degli impianti produttivi che siano estremamente flessibili ed adattabili, addirittura al prodotto unico, quindi ad una produzione personalizzata. La famosa personalizzazione di massa. E noi riusciremo a fare questo se rendiamo più intelligenti e più adattativi anche le risorse del sistema produttivo e quindi con l'introduzione di robot. Il robot è il primo attore e fautore della flessibilità all'interno dell'azienda, dell'industria. Ecco, ci interrompiamo un attimo per gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Restate con noi. Fabbrica 2.4. Le intelligenze artificiali ci ricorderanno come scimmie erette destinate all'estinzione. Non è strano aver creato qualcosa che ti odia. Rieccoci in linea, Fabbrica 2.4, vi ho fatto sentire ancora uno spezzone del film Ex Machina che devo dire che a me è piaciuto moltissimo, anche perché c'è questa attrice Alicia Vikander che è assolutamente strepitosa. Professoressa, ma il mito dell'ominide o dell'umanoide che copia il complesso di caratteristiche degli animali dell'uomo è destinato per il futuro a rimanere ancora nei libri di fantascienza, in film come questo? Ma nel prossimo futuro sì, penso. Però lascerei aperte le porte per il futuro, diciamo, come diceva lei, tra 50 anni. Tra 50 anni, noi non lo vedremo. I passi che stiamo facendo sono enormi, le tecnologie a disposizione galoppano e quindi si tratta di utilizzarle al meglio. E poi io ammiro sempre quello che i letterati, la fantascienza ci propone, che c'è sempre qualche cosa, diciamo, che è vero che si realizzerà in un futuro, più di qualche cosa. Ho sempre pensato che i letterati sono liberi nel loro pensiero, non hanno dei limiti di tecnologie, quindi non devono aspettare che qualcosa sia realizzabile o fattibile e in maniera robusta per poter essere applicato. Però invece... diventa poi scienza, cioè si applica perché? Perché è un desiderio dell'uomo. Aristotele diceva che non ci sarebbero schiavi se ci fossero, diciamo, tra virgolette, dei robot. Certamente. Senta, voi all'Università di Genova avete realizzato questo Furbot, il prototipo di un veicolo robotizzato per portare le merci in città. Ce lo vuole raccontare? Sì. La premessa che faccio è questa, che la robotica di servizio sta investendo, diciamo, moltissimi campi, moltissimi settori. È pervasiva, proprio come il calcolatore è diventato utilizzato ovunque. Anche quello della logistica, e soprattutto quello della logistica. La logistica intendiamo sia la distribuzione delle merci, distruzione delle merci in città. Le esigenze sono cambiate perché abbiamo l'e-commerce e quindi ci sono molti cittadini che sperano di poter ritirare le merci acquistate il più vicino possibile alla propria abitazione. D'altra parte tutta la cittadinanza vuole che i centri cittadini siano sostenibili, vivibili. Ma come fai a farlo girare se deve poi confrontarsi col traffico, con le altre persone che camminano? Diciamo per ora c'è una persona, un autista a bordo, però è già la macchina è completamente robotizzata, nel senso che è sensorizzata e tutta una serie di funzioni sono fatte in maniera automatica. Per esempio? Domani potrebbero anche non esserci l'autista. Quali funzioni fatte in maniera automatica? Le funzioni di carico e scarico. Di carico e di scarico, viene guidato anche su tutte le possibili ostacoli che ci sono, quindi a favore della sicurezza, questo, che ormai è una tendenza classica, ecco. In questo veicolo, dato che essendo un prototipo di ricerca, tutte queste prestazioni sono portate all'esagerazione. Un domani, quando si porti sul mercato questo, lo vogliamo fare molto presto perché è richiesto, alcune di queste super prestazioni saranno ridotte in modo da ridurre anche i costi. Comunque quello che è interessante e affascinante è il tema dei robot collaborativi. Su questo argomento ecco una breve scheda. Che cos'è esattamente un robot? Tecnicamente si tratta di un manipolatore programmabile su più assi, controllato automaticamente e riprogrammabile senza modificazioni fisiche. I robot possono essere di servizio, cioè capaci di svolgere i loro compiti in autonomia, oppure collaborativi, cioè in grado di interagire con l'uomo lavorandoci insieme senza danneggiarlo. I robot collaborativi sono impiegati soprattutto nell'automazione industriale, dove possono affiancare l'uomo nelle mansioni più gravose, per esempio passando all'operaio eventuali pezzi da lavorare. Fino ad oggi i robot di servizio hanno rappresentato la stragrande maggioranza degli automi in circolazione. Su un mercato di 27 miliardi di dollari di valore, valgono infatti 26 miliardi e 905 milioni di euro. I robot collaborativi o cobot valgono infatti appena 95 milioni. Secondo Abbey Research, però, il loro valore sarà di $1 miliardo nel 2020. Numerosi gli esempi particolarmente emblematici di nuovi cobot. Con l'aiuto di un articolo apparso sul numero di novembre 2015 della rivista specializzata Automazione Integrata, vediamone alcuni. Per esempio il Dual Arm Yumi di ABB Robotics, dedicato tra l'altro all'assemblaggio di componenti di piccole dimensioni, settore in fase di grande evoluzione, in particolare nell'industria elettronica, dove la domanda di prodotti ha ampiamente superato la disponibilità di manodopera qualificata. Yumi, i cui movimenti di presa sono molto human-like, presenta numerose opzioni di gripper, non ha punti di aggancio, per cui non sussiste alcun rischio di lesioni dovute all'apertura e chiusura degli assi, e dispone di un sistema di visione integrato che supporta localizzazione e prelievo dei pezzi. Più versatile, Rob1R di FNP. Interamente protetto da materiale morbido e capace non solo di handling e assemblaggio nel manufacturing, ma anche compiti personali da service robot, come assistenza medica e anche catering. Di dimensioni paragonabili a quelle di un operatore umano è Next Stage di Kawada Industries, caratterizzato da una visione stereoscopica che guida i movimenti nella sua area di lavoro e da una hand camera a supporto di posizionamento fine per presa e orientamento dei materiali da assemblare. La base è provvista di ruote per cui può muoversi secondo necessità e la sicurezza è garantita da limitatori di forza. Particolare successo sta riscuotendo la serie LBR-IIWA, Intelligent Industrial Work Assistant di Kuka Robotics, con sensori integrati di momento torcente sia per controllo delle operazioni di assemblaggio che per safe detection di qualsiasi contatto con un operatore umano. La programmazione si può effettuare muovendo manualmente il braccio del robot secondo la sequenza dei movimenti desiderati. Da questa panoramica non poteva mancare Baxter di Rethink Robotics, molto citato sin dal suo primo apparire sul mercato. I suoi sensori di forza adattivi gli consentono appunto di adattarsi in difficili operazioni di assemblaggio in cui si hanno piccole variazioni di allineamento e gli stessi sensori permettono al robot di sentire il contatto con un umano, interrompendo la sua attività, Da aggiungere la presenza di sistemi di visione integrati a livello head, occhi aperti, e arm, occhi chiusi. Rieccoci in linea con la professoressa Molfino, parlavamo di robot collaborativi. Professoressa, i robot collaborativi cambieranno molto il modo in cui si organizzano le fabbriche? Abbastanza. L'organizzazione del lavoro in fabbrica sarà diversa e già ci si sta pensando, ovviamente. Se da una parte richiedono un grosso impegno per quanto riguarda la sicurezza, quindi poter far lavorare il robot proprio mano nella mano o mano a mano con gli operatori umani, dall'altra proprio l'organizzazione della fabbrica. Che le celle dove lavorano la persona e il robot diventano celle estremamente flessibili, dove si sfruttano al meglio le capacità della persona con la sua intuizione e creatività e le capacità del robot con la sua forza, la ripetitività e la sua memoria, per dire. Ecco, ma questo tipo di robot, in qualche modo, invece di precludere delle strade come si tende a credere, magari apre delle possibilità alle piccole e medie imprese? Secondo me senz'altro. In che modo? Questo con i robot collaborativi è facile, diciamo, fare delle nuove celle manifatturiere per fare magari componenti, parti di prodotti. Quindi specializzare la cella per un specifico componente che farà parte di un prodotto. Queste piccole aziende normalmente lavorano in rete e quindi queste piccole aziende normalmente, diciamo, forniscono anche parte di prodotti. Quindi l'investimento dell'azienda che vuole lavorare su una specifica parte di prodotto è abbastanza contenuto e permette all'azienda oltretutto di guadagnare una grossa esperienza e di poterla riutilizzare in nuove parti di prodotto. Adesso lo ripeto, questa parte di prodotto sono componentistica. Certamente, ma è molto chiaro questo. La cella che ha acquistato l'azienda è flessibile e quindi si adatta. Oggi abbiamo finito i telefonini, diciamo, di una certa generazione e quindi non abbiamo più bisogno di batterie di un certo tipo, ma ne avremo di un altro, cambieremo le nostre risorse di produzione in maniera semplicissima. Mi è chiarissimo, io parlerei con lei per delle ore, purtroppo il tempo è tiranno, però io prometto ai nostri ascoltatori, che sono sempre affascinati quando trattiamo questi argomenti, di ritrovarci presto a parlare con la professoressa Molfino. Intanto, professoressa, la ringrazio. Grazie a voi.